Lei è un bestione con quel Davide dell'ostrega. Ma accidenti, Cruciani, e io ho speso pure 15 euro per comprare il vostro libro, che è una ripetizione delle vostre trasmissioni. E mi hai fatto pure la dedica scrivendo ad Annabella l'incazzatissimo Cruciani. Ma porca miseria! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stofanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Con tanti galli che cantano, chi chi chi chi chi, troppe galline rispondono. La pirlata del giorno, caro David, ci viene dal Movimento 5 Stelle, dal nostro amico Bernini, quello dei microchip. Te lo ricordi? Beh, quello dei microchip sotto sì, pelle, no? Sotto io pelle. Non sono amico di nessuno proprio. Senti che dice sull'11 settembre, senti, un inside job, colpa degli Stati Uniti, senti, in Parlamento, La versione ufficiale di quell'evento è stata smentita da tutti i punti di vista, è palesemente falsa e ormai il mondo se n'è accorto. La verità probabilmente non la sapremo mai, ma sicuramente è molto diversa da quella che i media mainstream ci raccontano. In questo caso si può dire che tutto quello che sai è falso e detta all'americana, it was an inside job, tradotto fu un lavoro interno. La conseguenza dell'11 settembre è stata una guerra scatenata verso uno Stato sovrano in un'annosa e un po' ridicola caccia all'uomo, Osama Bin Laden, che si è conclusa solo 10 anni fa. Bernini mio, Bernini mio, come ma ti piace? Ma perché non va in Siria, Bernini, un po'? Perché non va un po' in Siria, e i suoi amici, un po' in Siria, lì? Un po' in Siria? Per bene, in Siria, in Siria! Ma lasciamo perdere la Siria, non è quello il punto. In Parlamento ancora queste storie sul fatto che l'11 settembre è stato creato dagli americani. Bernini, Bernini mio. Ma poi Bernini, ma cosa sa Bernini di questo? Ma non sa nulla, legge delle robe su internet, non sa niente. È quello che diceva dei microchip. Risentiamo i microchip, ti prego, è troppo bello. I microchip sotto pelle, dai. È diviso in tre capitoli: religione, 11 settembre, che sarebbe inside job, la massoneria alla fine, il controllo globale. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. Tutto questo in Parlamento, no, quello prima in Parlamento, da casa lo diceva, ma è la stessa cosa, su. È la stessa cosa, amici miei. Vabbè, ancora non si è deciso nulla su Berlusconi, con Grillo che dice via i ladri subito al voto, e Barbara Berlusconi che dice mio padre non è un delinquente. Però noi abbiamo notato qualche frasetta interessante. La prima, vabbè, dove vogliamo andare? Beh, Crozza, partiamo da Crozza. Ho 300 amici su Facebook, abbonatemi le multe allora. Ditemi che argomento è quello per cui non si può condannare uno perché ha avuto 10 milioni di preferenze. E allora a me, che ho 300.000 mi piace su Facebook, cosa mi fai? Mi abbuoni le multe per divieto di sosta? Dove va a finire Berlusconi? Può essere ai servizi sociali. Magari lo mandano a fare assistenza in una casa per anziani. Ve l'immaginate il dramma in quella casa di riposo con i vecchietti che mangiano la pera cotta? Si apre la porta e entra Berlusconi. Uè, anzianelli, come va? Mamma mia, che mortorio! Ma cosa fate qui? Aspettiamo! Ma aspettate che cosa? La morte! Ma no, dai! Ma che morte! Ma perché non guardiamo tutti insieme il TG4? Non si fa mai. Giorno! il tuo amico Mauro ha una ricetta molto semplice: cacciare Berlusconi a calci nel culo. Nuova soprattutto. E se i piccioni spariscono? Dice, ma bisognerebbe che Berlusconi facesse un passo indietro, dimostrerebbe così di essere uno statista. No, dovremmo noi cacciarlo a calci nel culo, dimostreremmo così di essere una democrazia. Con calma, io non capisco, proprio non arrivo a capire dov'è il problema. Vai con le gambe che hai, io non posso pensare dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Beh, c'è anche la teoria, caro David, dell'amico Paniz, dell'avvocato Paniz escluso dal Parlamento, il quale dice che la legge Severino non si applica ai parlamentari, cioè i parlamentari sono esclusi, secondo lui sono esclusi. Ma allora beh, ricordiamo, signor Paniz è lo stesso che in Parlamento sostenne davanti a tutti la teoria alquanto bizzarra che la signora Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak, quindi voglio dire, no? E dai, la legge Severino non si applica ai parlamentari, è una legge ordinaria. La figura del parlamentare è disciplinata dalla Costituzione italiana. Nell'ambito della scala gerarchica delle fonti del diritto in Italia, la Costituzione è sovraordinata rispetto alla legge ordinaria. Per intervenire su funzioni disciplinate dalla Costituzione occorre una legge costituzionale. L'altra teoria è quella della Santanchè: noi non abbiamo votato la Severino, ma solamente la legge generale, non i decreti attuali. Ma perché io basta, non ne posso più, non ne posso più. Questa legge l'avete votata? No, attenzione. La legge delega, non questa legge, la legge delega, dove il contenuto era sconosciuto e c'è stato un voto di fiducia. Poi scusi Telese, io non so se lei viene dalla luna. Governo Monti, chi viene alla luna? Voto di fiducia, ricatto. Mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Io divento pazzo per un'altra cosa oggi. Divento veramente pazzo per un'altra cosa. Tu sai che ci sono gli altri? Pronto? Sì, dottoressa Entrieri? Sì. Sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24. Prego? La disturbo? Non la sento, può chiudere così. Sono in taxi, non la sento, chi parla? Ah, mi scusi, sono Cruciani, Radio 24. La disturbo? Ah, sì, sì, sì. Senta, ma perché lei ha rimandato indietro la posta perché non c'era scritto onorevole sopra? Allora, guardi, su questa questione io voglio evidenziare una cosa. Una grande strumentalità e una notizia falsa. Ma come falsa? Lei, lei ha detto se che è vera. Se mi fa parlare, se ne vuole parlare, se no io chiudo. No, certo, no, mi dica, certo. Allora, la notizia, io ho mandato la lettera, e la notizia falsa per cui io mi tutelerò nelle sedi opportune, fa data dal giornalista del Corriere della Sera, che io avrei sospeso un servizio, sì, e in cambio di quella tesa del titolo, sì, bravo, sì, non avrei fatto il mio lavoro. Costi non è vera, perché io, sì, sto facendo un lavoro ispettivo molto delicato. Che è quello, scusi un attimo, io ricordo che lei è delegata della Regione Calabria all'infanzia. Io non sono delegata, io sono un'autorità pubblica di garanzia. Vabbè, delegata, ho capito, sì. Non sono delegata, le autority sono in base al diritto amministrativo, sono, sì, autonomi di garanzia e vigilanza. Va bene, ma non lo mettevo in dubbio, sto dicendo che allora, lei... No, perché è importante questo punto, perché poi se lo facciamo tutti a... Lei è il garante calabrese... Ecco, è allora, il garante calabrese per l'infanzia, sì o no? Si discute giuridicamente delle questioni, sì, se no, d'accordo, no, allora, sì, il garante non è un'associazione o una... Ma nessuno l'ha detto, lei è un organismo... Allora, se lei vuole sapere, se lei mi chiama per informazioni, io no, do. Ma certo, se certo. Se non vuole, no, non mi fa perdere tempo né a me. No, ma si figuri, scusi un attimo, no, mio è per specificare, lei è garante... Allora, mi dica cosa desidera. Allora, lei è garante della Regione Calabria per l'infanzia, lei dice, io querelerò il giornalista del Corriere della Sera perché ha detto che io non ho praticamente fatto il mio lavoro per la questione dell'onorevole, giusto? Pronto? Dottoressa? Era in taxi, adesso la recuperiamo. Cioè, da quello che si è saputo oggi, caro David, non so se hai letto da qualche parte, questa signora... Tutto, ma non capisco di che cosa è garante. È garante dell'infanzia, beh, una di quelle cose... Ah, è garante dell'infanzia. Garante dell'infanzia della Regione Calabria, che è una di quelle cose totalmente... Garante inutile. Dell'infanzia. Sì, sì, la delegata della Regione Calabria all'infanzia, amico mio. Minchino, minchino. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. Adesso lo recuperiamo, lo recuperiamo il telefono della, anzi, la telefonata con Marilina Intrieri, eletta nel 2006 alla Camera con l'Ulivo, la quale vuole essere chiamata onorevole e quando riceve la posta si arrabbia perché sopra non c'è scritto onorevole, onorevole. Me lo portate un caffè per cortesia immediatamente? Pronto. Andrea da Milano intanto, 800 24 00 24. Andrea, mi portate un caffè shakerato immediatamente per cortesia. Pronto? Sì, eccoci qui, onorevole Intrieri, buonasera. Sì, aspetta un attimo che sta, sono andata a finire, mi sente adesso? Sì, sì, la sento bene. Come sta, cara? Per qua aperta, aspetta. No, che sta cercando? Un viva voce, specie di sapere. No, no, è meglio la no, viva voce no, funziona male poi. Pronto? Il viva voce sta cercando questa. Andrea, mi dica lei, su. Buonasera, a parte la storia dell'onorevole, molto simpatica, volevo intervenire sull'11 settembre. La mia è una telefonata un po' di pancia, nel senso che mi sa che non siete molto informati. Avete criticato abbastanza ironicamente ma aspramente l'intervento dell'onorevole 5 Stelle, però effettivamente ha ragione lui, tutti i fatti dicono sì, beh, sicuro che quello ragione. È stato sì, tutti i fatti, no, tutti lo dicono tutti che se lo sono fatto Bruciani, ma mi si informi sì. Questo, mi si informi, ma si informi lei, non dica stupidaggini, legga, ma guardi degli ultimi 15 ma anni, quello non c'è dubbio anni, ma quello non c'è dubbio, che c'entra questo è però? Appunto, è importante approfondirlo, ma caro Andrea, ora, guardi, a me non me ne frega niente di approfondire adesso questo o quello, io no, dico no, io scusi un attimo, ma io dico semplicemente una cosa, questo signore che si chiama Bernini, che non so quello che facesse prima di entrare in Parlamento, al Parlamento, davanti al Parlamento l'11 settembre sostiene che gli americani se lo sono fatti da solo, va benissimo sì. lo facesse a casa sua nei convegni eccetera eccetera, non ci rompesse le scatole in Parlamento, no, dicendo che gli americani dice quello che pensa, ma va bene, per carità, bene, no? Sì, ma il Parlamento non è una tribuna per queste tesi assurde, su dai, È vero, però è anche un fatto che storicamente va un po' bisogna fare un po' di revisionismo in senso positivo. Beh, bisogna sempre fare revisionismo. Grazie Andrea. Allora, onorevole Intrieri, adesso la sento, eccoci qui. Allora, mi faccio le domande che rispondo. Allora io le chiedo subito una cosa, sì. Perché lei vuole essere chiamata onorevole? Allora, guardi, la lettera, tra l'altro molto riservata, perché mandata a un funzionario della prefettura, il capo di gabinetto, che ha propalato questa lettera in modo tendenzioso, le dirò mi propalato perché. Sì. Certo, perché è una lettera che viene mandata propalato a una persona, viene mandata a una persona e poi viene resa pubblica, non c'è un motivo, perché non è che abbia bisogno di questo, è perché lei, il prefetto lo chiama signore? L'avvocato lo chiama signore, no, ma lei è stare questo, adesso le dico. Ma lei è stata onorevole, non è più onorevole, certo, non certo, è più onorevole. Tanto, ma lasci stare, la questione nasce. Per la pubblica amministrazione in genere ci si scrive in modo impersonale al garante dell'infanzia, senza nome e cognome, perché pro tempore, al prefetto, in modo pro tempore. Quella lettera nasce in un contesto molto delicato e particolare. Sì, ma il fatto che lei sia stato onorevole, cosa c'entra in questa questione? Se lei vuole fare parlare, perché io mi sono lamentata, perché altrimenti se lei vuole sapere altro è inutile che discutiamo. No. Io le sto dicendo il motivo per cui è nata quella lettera. Quella lettera, linea di richiesta di rettifica, nasce perché, non perché il funzionario della prefettura non mi chiamasse onorevole come io chiamo prefetto il prefetto e così via, perché c'è anche una forma nelle istituzioni che va rispettata, ho capito, l'ha sempre fatto, per dire la verità, ma perché mi può chiamare tranquillamente garante, perché io nelle funzioni sono garante e devo essere chiamata garante. Vabbè, allora altro. Ma perché in quel momento la lettera che mi è stata mandata, per la quale io ho chiesto la rettifica, era una lettera di autorizzazione di accesso a un campo profughi, dove io sto facendo una verifica di violazione di diritti umani molto grave, va bene, mandata per conoscenza all'organo gestore su cui io sto facendo la verifica. Ma non gliene frega niente a nessuno che lei è stato onorevole, non conta, non rileva in questo caso. Va bene, allora guardi, lei non vuole parlare. No, non vuole, ma io voglio parlare. Lei vuole dare un contributo ai cittadini, ma per io, capire. Io voglio capire perché lei. In Calabria, purtroppo, quando le persone e le istituzioni per bene cercano di fare il loro dovere, di ma io non sto dicendo che lei non è... chi non fa i controlli e quindi si muove nelle istituzioni tentano di fare invece fumo e chiacchiere e parlano di stupidaggini, no, perché poi non parlano delle cose. Scusi, però se lei vuole fare il giornalista, signora Entrieri, signora Entrieri, ma io voglio... guardi, ma io non lo chiedo, ma perché lei vuole, ma lei vuole, vuole dire quello, ma vuole dire quello che dice da uomo del bar. Ma no, ma non è questione di senta, adesso non è che me lo deve insegnare lei il mestiere, io non le posso insegnare a fare il garante, non le posso insegnare a fare, io non le posso insegnare a fare il garante, lei non mi deve insegnare a fare questo mestiere. Allora, la domanda è questa. Ma attinente, lo dico, non è che lo decide lei se è attinente o no, scusi un attimo. Un attimo solo, un attimo solo, un secondo. Allora, si fermi un attimo, calmiamoci tutti, così siamo più tranquilli. Allora, lei ha detto, qua, confermo tutto, aggiungo che un'articolazione dello Stato deve rispettare il protocollo. Il titolo onorevole rimane anche quando non si riveste più l'incarico di parlamentare. Su quello, d'accordo, onorevole, uno lo può chiamare così, ma se uno riceve una lettera e non c'è scritto onorevole, non è che dice... Non è che dice rifatela, non è che dice rifatela. Sì, è stata una presa di posizione rispetto ad un atteggiamento di un funzionario che mandava questa lettera di autorizzazione per conoscenza a un ente gestore, quale voleva dare la sensazione che il garante dell'infanzia, anziché essere un ente autonomo che faceva, che ha titolo di fare vigilanza in modo autonomo, non si è capito niente, fosse addirittura un'articolazione della prefettura. Ma è una supercazzola questa, ma è una supercazzola, ma è una supercazzola. Non si capisce niente. Allora, se non è una supercazzola, non so. Ma scusi un attimo, lei evidentemente in diritto amministrativo. Ma ha spiegato, non si capisce niente. La prossima volta, scusi, è poco ferrato. Ma io non sono poco ferrato, la gente non capisce. La gente non capisce. Le sfugge la sfumatura istituzionale. Ma se c'è scritto onorevole o no, che cosa gliene frega per il suo lavoro? Mandi la tua mail che le manderò un. Ma scusi, ma si capirà bene quello che voglio dire. Signora Garante Entrieri. Garante Entrieri, cosa gliene frega a lei essere chiamato onorevole? Lei ci tiene? Ci tiene o no? Ma guarda che roba da matti, guarda, è roba incredibile. Alessandro da Rimini, avanti. Salve, buonasera. Sto seguendo con interesse questo dibattito. Devo dire che effettivamente adesso fare giornalista è difficile, è sempre più difficile. Ma no, ma è facilissimo in questo caso. Cioè, quella è partito con la supercazzola perché il garante è qui, eccetera, qui allora, qui l'articolazione, qui voleva fare. Ma di che stiamo parlando? Se non c'è scritto onorevole, ma che cosa ti frega? Rispondi alla lettera, fai il tuo lavoro e punto e basta, no? Su questo sono d'accordo. Infatti, mi lascia un po' perplesso. Io poi, tra l'altro, sono anche presidente di un'associazione di consumatori dal 94. Che ci sono, non mi sono mai rifiutato, ecco, nel mio piccolo, di agire, di muovermi, perché magari non avessero rispettato la forma, insomma. Direi che i politici in questo momento dovrebbero farsi una bella riflessione, ecco. Sì, poi? E un pochettino di umiltà, perché sono al servizio della comunità, ecco. Vabbè, grazie. Marco da Parma, eccolo. Dica. Buonasera a tutti. Io, Cruciani, voglio fare una riflessione su di lei. Sì, faccio una riflessione su di me, su. Io credo che il grande valore della sua trasmissione sia negli ospiti che lei riesce a a interpellare. E allora? Ascoltatori compresi. Sì. Non capisco perché li tratta a pesci in faccia molto spesso. Sì. È un atteggiamento maleducato che fa rimpiangere Alessio Maurizi. Ha detto l'ennesima stronzata, quella delle 18:54. È contento di aver detto questa stronzata? È contento? È contento? Che in contrasto col benissimo. Suo. No, ma non è una, semplicemente una stronzata. Alberto da Biella, buonasera. Buonasera. Dica. Guardi, io sono incassato nero. Perché? Perché quello che sta succedendo è una cosa vergognosa. Che cos'è vergognoso? È vergognoso che Berlusconi sia ancora lì, sì? È vergognoso che lo difendano, sì. È vergognoso che Berlusconi, no, che Napolitano, sì, si appelli alla nazionalità dell'Italia, eccetera, per salvargli il culo a sto rompicoglioni, sì, e da 20 anni... No, ma veramente, Napolitano, scusi, si calmi, non si affoghi. Non... No, no, ma mi crede. Se no ci crepa in diretta qua, cioè... Sono moderato. Ma non mi pare che lei sia moderato, scusi Alberto. Adesso, abbia pazienza, tutto è lei tranne che moderato. Parenzo, dove diavolo sei? Ma io sono qua, non mi senti, sempre al fisso. Che ne so, parla, no, ci sentiamo dopo. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se non vuoi vedermi intorno. E ancora qua siamo. Senti Brunetta, Brunetta! Sentiamo. Vai avanti tu, così ti guardo meglio. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Adesso arriva, Brunetta, che non so con chi, con Speranza, non so con chi dice uso politico della giustizia, non c'è retroattività. C'è una persona che deve essere al di sopra della legge. No, questo è inaccettabile. No, per questo io voglio fare perché c'è l'uso politico della giustizia. Io voglio fare un appello perché c'è l'uso politico della giustizia. Che è una persona distante politicamente. Perché c'è l'uso politico della giustizia. Che oggi possa perché fare aberrante un gesto, il vostro comportamento. Che aiuta paese a perché fare un aberrante il vostro comportamento. Io non penso che possiamo continuare ad essere sotto ricatto. Noi e non penso che possiamo continuare a subire questa situazione insostenibile. Sia fatto fuori con un uso politico della giustizia. Comunque ormai. Comunque da questa cosa non se ne esce, chiunque almeno pubblicamente interpelli del PDL, del centrodestra, sostiene che cosa? Che anche se c'è una sentenza definitiva, questo non conta nulla perché in realtà la giustizia, i giudici in particolare, un gruppo di giudici ha voluto distruggere Berlusconi, dunque non si può riconoscere la sentenza definitiva, questo da una parte. No, a me piace quello, quando all'inizio diceva no, e poi ma perché no? No. Dall'altra parte invece ci sono quelli del Partito Democratico che dopo 20 anni in cui hanno detto che quello è un delinquente, un truffatore, un bandito, cioè non è che possono dire adesso, beh avete ragione voi, in realtà in questi 20 anni i giudici hanno solo voluto inchiappettarlo e basta. No, e dopo quelli là è 20 anni che dicono che quello è un truffatore, eccetera, che ci ha provato con la giustizia e si doveva dimettere pure quando aveva un avviso di garanzia, eccetera. Volete che adesso non sostengono che dopo una sentenza definitiva si debba dimettere? È evidente che lo sosterranno. E anche se non ci credono, ci devono credere per forza, altrimenti gli elettori prendono i forconi, no? Paolo Bernini, il deputato che oggi in Parlamento ha sostenuto che l'11 settembre gli americani se lo sono procurati da solo, scrive un tweet, senti qua, se qualcuno mi mostra un video, sentite amici miei, se qualcuno mi mostra un video dove si vede bene l'aereo che colpisce il Pentagono, il luogo più sorvegliato al mondo, mi dimetto. Bernini mio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ancora scontro sul calendario della giunta del Senato, il PDL tenta di rinviare il voto, il PD si oppone, Stefano domani farà una mediazione. Alfano, non ci toglieranno l'orgoglio, il PD si discuta ma senza perdite di tempo, Grillo attacca tutti, via i ladri, si voti subito. Letta, l'instabilità ci costa miliardi, rischiamo di sprecare i sacrifici fatti finora dagli italiani, per crescere va tagliato il costo del lavoro. Confindustria, recessione finita ma la ripresa sarà lenta, Saccomanni, rischi politici sullo spread, risalgono i tassi dei bot. Siria, la diplomazia è bloccata, Mosca continua a frenare, il massacro è opera del regime, insiste invece il rappresentante europeo Catherine Ashton. 12° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, Obama, restiamo forti di fronte alle minacce, la forza a volte è necessaria ma da sola non basta. L'ONU fa la classifica della felicità nei paesi del mondo e l'Italia precipita dall'anno scorso scala di 17 posti e si ritrova in 45esima posizione. Più soddisfatti sono gli scandinavi. E il fatto è che il TG3 prende seriamente questo studio dell'ONU, sulla felicità, io non so quanto sia costato alle nostre tasche, lo studio dell'inutile ONU sulla felicità, in cui l'Italia sarebbe precipitata non so quale posto. Il TG3 prende seriamente questa roba qui, la prende seriamente lo studio dell'ONU sull'infelicità, sull'infelicità. Servizi di segreteria telefonica. Ma come segreteria telefonica? Mauro da Mantova, buonasera Mauro. Ciao, cruciale. Dica. Oh mamma. Ah, ma questo è Mauro, questo è Mauro. Oh, stai zitto, cagnaccio. Va a cuccia, cagnaccio. Dì che a cagnaccio lei che sia a cuccia, cruciale. Sono, è tornata all'emorragio della zanzara. Prego, vediamo. Che vuoi? Guardati, sorcio megagalattico. Sorcio megagalattico. Addirittura. È tornata l'emorroide, ogni tanto torna. Prego, avanti, forza. È tornata l'emorroide. Com'è l'emorroide lui? Andiamo avanti. Allora, Mauro, che c'è? Ascolta, cruciale, io non voglio parlare coi cani. Perché i cani non parlano, abbaiano. Hai capito? Allora, cerca di metterlo a cuccia in un box. Porta il canile, quel leccaculo del cavolo lì. Ascolta, volevo chiederti una cosa, prima di dire il discorso Dimmi. Di cui ho chiamato. Ma quando è alla fine la zanzara, sì. Che si sente io quando sono in autostrada, voglio ridere. Sì. Ma io so chi è quello lì, sai? Chi è? È uno di Torino. Lì? Eh? Uno di Torino, No, no, è uno di Milano. È uno di Milano, ma scusa, ma perché sta al casello di Carisio? Quello lì, io guarda, sarei pronto a scommetterci qualsiasi cifra. Quello lì è il figlio di quello che probabilmente vi paga. Voi per caso siete mica sotto a Tronchetti Provera, no, come linea editoriale? No, ma lei non sa nulla, Mauro, lei non sa assolutamente niente. Ma invece niente. A me mi risulta che quelle analogie... Aspetta, che non si sente, parla un po' più chiaro, Parenzo, scusa. A me risulta sì. Che questo è certificato, proprio come le ISO 9000, le aziende, no? C'è la certificazione, il bollino. A me risulta che questo è un coglione. Ma proprio senza. Ascolta, cruciale. Sì, dimmi. Cruciale. Mauro, dimmi. Ma è vero che andrai a fare una trasmissione a Canale 5 lì? Ma a sono cazzi nostri. Ma non sa Mauro, niente proprio. Niente. No, perché io a Cruciale lo farei, sì. Pulire i cessi, però, in Mediaset. Sì, io a pulire i cessi? No. Chi? Parenzo? Lo metterei a pulire i cessi, è l'unica cosa che può fare Mediaset. Perché essendo uno stronzo, sì. Per stare nel suo ambiente, sì. Essendo una merdaccia, sì. Deve stare al cesso. Perché è una merdaccia, come Parenzo, che è un leccaculo al cubo. Non so quanti culi ha già leccato. Qual è anzi, voglio chiedere, così faccio prima. Sì, chiedi, quali chiedi. Sono gli unici culi che non hai ancora leccato? Per come li hai già leccati tutti, quel leccaculo di merda, lì, che è tutto anche un ebreo. Vabbè, adesso questo che c'entra, scusa Mauro, questo ma non c'entra perché? Nulla, questo non c'entra, nulla? Ma questo non c'entra. Ma tu, adesso tu puoi dire che fare ancora, hai avuto che fare ancora con degli ebrei, mai chiedergli di offrirti un caffè, ma o questi sono luoghi comuni, quello non ce l'è. Dai, Mauro, ma smetti. È come chiedere un caffè a un genovese. Ma dai, su, ma sono luoghi comuni, ma smetti con questa storia. No, non sono luoghi comuni, te lo garantisco. Ma quando smetti, ero ragazzino, ma... quando ero ragazzino, qui a Mantova c'era un ingegner Rimini, e io so gli ebrei come sono, hanno il cognome della vabbè, località. Ma non è che, ma che sono tutti uguali. Ma al di là di quello, al di là di quello. Ma che c'entra adesso? Vieni in officina, no? aveva una lancia che aveva avuto un anno e mezzo. Mi appoggio con le dita pulitissime sul bordino della carrozzeria. Ma io tocco le mani, non ho fatto mica niente, ho le mani pulite. Ma non sai perché con l'acido fa che il sudore che ha le persone ha dentro la città può colorare la vernice? Vabbè, era preoccupato. Ma che ti venga un cancro, te le tue cazzate, ma cosa vuoi che corona l'acido? L'acido, il sudore. Ma per piacere. Mauro, ma non mi pare un aneddoto fondamentale questo qua, scusami. Cioè... Ma ascolta, è gente che io quando la vedo levito. Levito come quando stai camminando, vedi la pupù, ti sposti, no? E io invece evito loro. Perché tanto so già che con loro non ci cavi un legno dal buco. È gente che si deve stare solo tra di loro. Ma gente tanto... chi? Ma che poi loro si sono creati nel loro mondo solo tra di loro. Vabbè, mondo io sono solo tra di loro. Comunque, ma di che stai parlando? Stai parlando di cose assurde, di cose inesistenti? No, non sono cose assurde, sono cose assurde. Ma adesso che c'entra questo qua? Spiega. Comunque le voglio vedere, non con un altro discorso. Comunque anche prima quando parlavi così dell'onorevole e non onorevole. Ma sai gli italiani che stanno scappando via tutti? Io due giorni che sto chiamando in Svizzera, scarico col mio smartphone. Scarico tutti gli indirizzi delle aziende in cui vorrei o mi propongo per andare a lavorare. Allora dico tutti no, perché Marco. No, non sono Marco, io sono realista. Parenzo è uno stronzo, io sono realista. Devi chiamare le aziende appena lo sento e le mandano via. No? Allora no, io ho chiesto se poteva interessargli la mia collaborazione. Fa. Ma non gli interessa, è l'801esimo curriculum che mi vuole mandare, perché? Ho già 800 curriculum di italiani. Oh, stanno scappando via tutti dall'Italia. Vabbè. Chi, co, co, co, cucuru, curu, curu, curu, qua, qua. Zanza, zanza, zanzare. Dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Fiorello se la prende con Mogol, o comunque ironizza sul fatto che Mogol ha deciso di scrivere un inno per la regione Lombardia. Un inno che riguarda la sua terra, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che non gliene importi nulla a Mogol di Maroni, della Lega e di quant'altro. Sentiamo. Tutti gli vogliamo bene a Mogol, per cazzo, quello che ha scritto, noi gli vogliamo bene. Ma eccolo qua il ritornello. Siamo sicuri che questo l'ha scritto Mogol? Lombardia, Lombardia, grande terra mia, terra piana la padana, siamo sicuri? Gente forte che è, generosa e operosa, e stringe tutti a sé senza una bugia. Ma la rima non c'è. Ma quello non vuol dire non fare rime, non c'è, però. Ho purtanca la mia donna. Per farla riposare. Proviamo a cantare Lombardia, aspetta. Lombardia, Lombardia, grande terra mia, terra piana la padana, gente forte che generosa e operosa, e stringe tutti a sé senza una bugia. Culina in campagna. Poi si applica sull'inno del Lazio. Mogol, qua ti facciamo concorrenza. Perché con tutto il rispetto per il grande Mogol, noi abbiamo scritto, com'è? Com'era la melodia? Vabbè, noi viviamo in una mitica regione. Dal Colosseo arriva dal Cupolone. Gente brava, brava, gente che lavora. Siamo nel Lazio, non c'è rompete il cazzo. Non avete fatto sentire la finezza, nel Lazio non c'è rompete il cazzo. Era quella che ci avete cantato sopra. Vabbè. Mauro, sei ancora lì? Sì, sono ancora qua. Vabbè, che vuoi, dai. Ascolta, ma perché non gli metti un uccello di gomma in bocca a Parenzo, che così se ne sta zitto quel pederasta di porco? È stronzo, è una voce di merda e me lo continui a far parlare. Ma lo faccio apposta per farti incazzare, su Mauro, dai. Ascolta, io quando ho sentito Riccardo da Roma gli avrei dato un bacio in fronte, me l'ha massacrato. Però ha sempre l'opportunità Parenzo, siccome che presto ci sarà il Boreal Festival. Il? Antisemita, Boreal Festival dell'estrema destra, a cui io parteciperò, io e l'altro mio amico D. di Piacenza, che è un super fascista, bello, una mano di legnate a quel coglione di Parenzo non gli si nega, gliela si dà a gratis. Ma scusa un attimo, tu vai al festival di Forza Nuova? Quello dei nazisti, certo. Quello dei nazisti? Beh, certo. No, di estrema destra, che nazisti? Estrema destra. Certo. I nazisti non ci sono più. Ma è evidente, no? I nazisti non esistono più. C'è l'estrema destra, non ci sono. Ma mica mi stupisce che un coglione simile dell'ufficio parolati... Ascolta, tu stronzo, non dovresti nemmeno esistere. Tu dovresti essere nella biologica. Quella biologica, perché c'è una merdazza, dovresti essere la biologica. E invece se vieni in radio, arrivi cazzate. Senti, Mauro, tu puoi andare a tutti i raduni dell'estrema destra che vuoi, ma perché vuoi picchiare Parenzo, scusa? Ascolta, se io fossi un poliziotto, sì, io uno come me lo arresterei se non lo picchiasse. Ah, su quello non c'è dubbio. Cioè, lei non ha picchiato Parenzo, ok, in arresto, perché è un dovere per un coglione stronzo come lui, è un dovere prenderlo a sberle. Chissà che impari un po' l'educazione nei riguardi di chi non la pensa come lui. Un giorno i tuoi genitori non potevano mettersi un preservativo anziché fare sto danno all'umanità? Ma non ho la testa di cazzo come te. Sei l'unico stronzo con la testa di cazzo. Sei l'unico stronzo. Pensa che roba. Sei l'unico stronzo con la testa di cazzo. Facciamo un favore a tutti, capito? Cos'è, un ibrido? Sei un ibrido? Sei l'unico stronzo con la testa di cazzo. Mauro, vecchia questa, l'hai già detta, dai. Ciao, l'hai già detta, dai. Via. Rinnovati, dai. Cruciani, comunque quando parli di discorsi, invece che parli di stronzate poi alla fine, secondo sì, me. Beh, certo. Ma perché non parli invece della disoccupazione degli ultra cinquantenni come me, che sono dal settembre 2011, da quando quel dittatore comunista di Napolitano ha messo un presidente del Consiglio che non è stato votato, che ha portato l'Italia. Vai, ma che c'entra questa giù, adesso? Sotto il bidone. Vabbè, Mauro, non, ciao, molletta, ti saluto. Sotto il bidone della molletta. Ti saluto, ciao. Andiamo a Modena, Michele, buonasera Michele. Restate qui, ancora grandi sorprese. Buonasera, ancora lei si diletta nel suo sport preferito, spara il grillino. Io ho fatto? No, ma scusi. Ma io mi riferivo all'onorevole Bernini, no? Lei onorevole, insomma, onorevole. Adesso lei forse non lo sa, ma cittadino Bernini. Un DVD con... Pronto? David? Pronto, onorevole? Sì, no? Onorevole, buonasera, sono Parenzo. Sono Parenzo, come sta? Si faccia riconoscere, le chiedo scusa. Sono Parenzo, Mediaset Radio 24, onorevole Intrieri. Mi fa capire questa roba qui della, guardi, della busta che ha rimandato in, in questo momento sto entrando in un altro telegiornale, guardi. Come momento. Dice, cara? Sto entrando in questo momento in un altro telegiornale, mi scusi. Questo non è un telegiornale. Ma ha chiamato poco fa il suo collega? Ma mi no, ma quello non capisce. Ma il mio collega non capisce perché formula le domande in modo complesso. La mia allora è una domanda a dire... Allora, mi mando una mail, io le mando. La mia... No, il ma quale mail, poi... garante? Ma quale mail? Basta una risposta secca. Lei guardi, è un deputato, entrando, no? Sto entrando a TG. Lei è un ex deputato, giusto? Sì, mi scusi, sto entrando nel telegiornale. No, ma non si entra nel telegiornale. Non si può entrare nel telegiornale. Mi dia retta un secondo. Ti ho beccato. E da sempre c'ho. Vabbè, Michele, che vuoi tu? Le volevo informare che c'è un DVD in giro edito sì. da Giulietto Chiesa con gli interventi di Dario Fo, Moni Ovadia, cioè Ovadia. Ovadia, sono coglioni, non ho capito. Lei dovrebbe informarsi. Chi ha detto che sono coglioni? Ma va benissimo tutto quello che fanno. Sto dicendo semplicemente che questo allora qua in Parlamento l'11 settembre rilancia queste teorie che fanno parte, per carità, esistono sempre i complottisti, quelli che pensano che gli americani se lo sono fatti da solo, che hanno fatto esplodere il Pentagono apposta, eccetera, eccetera, che non esiste l'aereo, scusi, che non esiste l'11 settembre. Ma va benissimo, che... va bene tutto. Dico che l'onorevole Bernini insomma è pagato da noi per dire in Parlamento queste cose, signor Bernini, onorevole Bernini. Ma la verità chi è? Secondo lei è la verità? La verità dov'è? Perché lei dice che è la verità? Chi lo sostiene che è la verità? Lo dice lei? sì, perché ci sono le prove ma tecniche, quali prove? Perché... quali prove se dove? Se lei guarda il pentagono, c'è un buco di 5 metri, mi spiega come fa a passare ma un... Ma quali prove? 7, 4, dai, 7, su, 7, ma smettiamola metri. Con queste cose, ci sono le prove, su, Michele, dai. Sì, ma allora, per lei, Dario Fo e Monio Vadia sono dei coglioni, perché loro hanno partecipato a questo DVD per l'inchiesta sull'11 settembre, quindi lei sta dando del coglione a un premio. Io non sto dicendo che sono dei coglioni, io sto dicendo che... Sto dicendo che... Tutta questa letteratura contro l'11 settembre sul fatto che sono stati gli americani a creare l'11 settembre, a fare che non esistono i terroristi che hanno progettato l'attentato, eccetera, eccetera, che conveniva all'America, sono tutte cose che fanno parte, come quando succede un grande evento, delle teorie complottiste, ci stanno, punto, ma sono cose minoritarie che non contano, capito? Non contano nulla, niente, zero. Sì, Mario, ma allora, se posso fare un appello alla sua trasmissione, faccio un appello, prendete sì. Il DVD Zero, chiesta sull'11 settembre, sì, Giulietto, certo. Chiesa, Giulietto e poi, sì. E poi dopo parleremo e lei si informi un bene, po' meglio. Io mi informo Gianni. Meglio. Michele, arrivederci. Mario da Firenze. Pronto? Dica. Pronto? Dica. Senta, no, volevo solo ringraziare l'onorevole Entrieri perché è stata un intervento così educativo su quanto i funzionari pubblici come lei siano lontani da ogni tipo di bisogno. Cioè, anche solo per spiegare le cazzate che fanno, non riescono a comunicare niente alla gente. Cioè, è una cosa pazzesca, questa signora che ci costerà qualche centinaio di migliaia di euro tutti gli anni, sì. E che non fa niente per la collettività, e che, figurati per l'infanzia calabrese, che sta fresca se aspetta la domenica. Ma la cosa che mi ha veramente interessato, perché poi, riflettendo mentre aspettavo di collegare, è questo, è che probabilmente per diventare onorevole, ed è il motivo per cui lei si è incazzata secondo me, lei ha leccato un numero così innumerevole di culi che tutte le volte che deglutisce sente questo vago odore di merda. Vabbè, no? Adesso, e allora chiaramente quando uno non la chiama onorevole dice cazzo io ho questo sapore perenne di merda in bocca e non mi deve neanche chiamare onorevole, lo pretende anche dallo spazzino e dal postino, perché è chiaro, lei si è così sdata, ha così rinunciato a parte della sua vita per avere questo titolo del cazzo che a noi ci costa qualche milione d'euro finché lei vivrà, e allora lei si è giustamente incazzata. No, ma la e cosa è... assurda è la spiegazione, è partita con la supercazzo. Cruciani, mi scusi, invece è quella, lei la deve mettere in bacheca quella spiegazione, perché è la spiegazione per cui il pubblico non farà mai niente per il popolo, perché lei si è dilungata 5-6 minuti dicendo, come giustamente l'ha detto lei, una super cazzola con lo scappellamento a destra, per dire assolutamente niente. Il fulcro della discussione è che io ho leccato il culo, mi hanno eletto, mi chiamo onorevole e voglio essere chiamata onorevole anche quando faccio sesso con mio marito, perché questo è quello che ho ottenuto da questo Stato. Il resto lei non serve a niente. Grazie Mario, il suo intervento è perfetto, grazie. Oh, finalmente ho trovato una persona del Partito Democratico, una senatrice, caro Parenzo, che dice un po' le cose come stanno sulla vicenda della Chienghe. Ora adesso lei dirà no, non l'ho fatto, non l'ho detto, non volevo intendere questo, però poi carta canta in questo caso, carta canta. Di fronte all'ennesima uscita, secondo me inutile, totalmente fuori luogo, da parte del ministro Chienghe, ministro di colore come sappiamo, cioè quella del genitore, no? La sai, no? Non ci deve essere più mamma, papà, genitore 1, genitore 2, eccetera, eccetera. La senatrice Laura Cattini su Facebook, rispondendo ad un amico, ha scritto: francamente non mi pare proprio all'altezza di fare il ministro. Non è che l'ha scritto il capo di Forza Nuova, non è che l'ho detto io alla radio, non è che l'hai detto tu, anche se tu non lo pensi, perché pensi invece che la Chienghe sia il massimo, il grande simbolo per combattere il razzismo, le cose. Pensi delle cose di una banalità pazzesca. L'ha scritto uno dei migliori ministri della storia repubblicana degli ultimi anni. Bah, come dai, sicuro. E dai, poi argomenterò per ore e ore. Vabbè, comunque, a scrivere questa cosa, cioè francamente non mi pare proprio all'altezza di fare il ministro, è una senatrice del Partito Democratico della provincia di Firenze, senatrice Cantini, eccoci qui. Senatrice? Sì, buonasera, buonasera, sono come sta? In collegamento telefonico. Eh beh, fino a prova contraria sì, senatrice. Allora. Sto bene. Come sto sta? Sto bene, sono uscita dall'aula. È uscita dall'aula. Che, sì. Che fa nell'aula? Tanto ormai... nell'aula ci sta finendo l'aula per le 8, per cui sono uscita, ora sto controllando sul video... che sta controllando. Non ci sia il voto, ma penso che oramai il voto lo facciamo. Vabbè, tanto mattina. le rubiamo due secondi. Ma scusi, senatrice, io voglio capire una cosa. Allora, secondo lei, lo dica però a parole, quella volta sì. L'ha scritto a parole, il ministro Chienghe non è in grado di fare il ministro. No, io non l'ho scritto. Non è all'altezza, non è all'altezza, non è all'altezza. Le parole che ho scritto non ho bisogno di ripetere. E come no? Confermo la mia totale contrarietà al tema, perché quello era un commento su una frase abbastanza ilare di un amico su Facebook e su c'entra? Questa vicenda del genitore 1 e genitore 2. Sì, d'accordo, però lei non è che ha detto ha sbagliato a proporre quella roba lì, ha detto sì, francamente non mi pare proprio all'altezza di fare il ministro. Riferito a questa cosa e riferito a tutto. Ho espresso la mia netta contrarietà con le parole che si usano spesso su Facebook. Ma no, le parole che si usano su Facebook. Che non ritratto, non ritratto. Cioè non è in grado, secondo lei... Direi oltre... ha dimostrato un po' di inettitudine. Senatrice Cantini, però andiamo adesso, non è che ci possiamo prendere in giro qua. E allora lei, quando lei scrive non mi pare proprio all'altezza di fare il ministro, non è che si riferisce a quelle robe lì. Quando uno dice scrive e lei non ritratta la Chienghe non mi pare all'altezza di fare il ministro, vuol dire che non mi pare all'altezza in generale, non solo per le... in generale io non l'ho scritto, lo dice lei. No, lo dice lei, lo scrive lei, e lo scrive lei. È diversa. Vabbè, la cosa non litighiamo su questo, non discutiamo. Ma no, cioè, ma lei capisco che vuole ritrattare, però no, io non ho ritrattato niente. Io ho e continuo a sostenere che quelle posizioni, in quel caso lì genitore 1 genitore 2, aiutano a fare un passo avanti sulle questioni che invece io vorrei che affrontassero. D'accordo, perché... però lei non ha scritto solo questo. Lei altre volte uscita sostanzialmente con questa uscita la Chienghe dimostra di non avere la statura del ministro. Dunque, ho capito, ma questo significa... Si può criticare, credo, l'azione di un ministro. Io lo faccio. Ma come no? Certo, meno male. Anche nei confronti della Chienghe, voi e altri hanno alzato una grande attenzione su questo tema perché è considerato un ministro diverso dagli altri, ma io invece la considero un ministro uguale agli altri. Scusi un attimo, scusi signora Cantini, onorevole Cantini, innanzitutto bisogna abituarsi a chiamarla con il nome congolese, perché ha detto che bisognerebbe chiamarla con nome congolese detta Cecil, ci ha tenuto a precisare la signora ministro. Va bene. Con nome congolese, non Cecil Chienghe o Chienghe come si voglia, ma insomma con nome congolese e poi detta Cecil, non so perché dopo 4 mesi se ne è uscito con questa cosa. Vabbè, però lei ha detto non nego che quello che ho scritto, credo che il ministro dovrebbe iniziare a fare cose concrete prima di parlare, esatto. Anche sulle pari opportunità, i diritti civili o ius soli. Esatto, ma perché a me premono i temi che lei affronta. Non ha fatto niente fino adesso, questo vuole dire. Vorrei invece le potessimo affrontare nel merito, perché lei è ministro e io sono una senatrice della maggioranza di questo stranissimo... di questa stranissima legislatura. Ma diciamo la verità, è un ministro inutile. Senatrice Cantini, è un ministro inutile, diciamo la verità. Su, No, questo non lo dirò mai perché non lo penso. Però lo pensa, lo può dire lei. No, non lo dirò mai perché non lo penso. Io sono abituata a dire quello che penso e quello che penso. Però fino adesso chiacchiera troppo, no? Chiacchiera troppo e basta. Su, diciamo la verità. Io vorrei cose concrete, anche piccole ma concrete, per fare passi avanti su quelli che sono i temi che io invece vorrei vedere progredire. Poi gira troppo, no? Per l'Italia, troppe cose no. Mediatiche o no? No, questo può essere un pregio, perché un ministro deve tenere contatti con i territori, non difetti quelli di girare. L'importante ma è competente secondo lei? È un po' è stata messa lì un po' come simbolo. In realtà non è che ha competenza tutte queste robe qui, ius soli, integrazione. Ma le competenze ci si fanno e mi sembra che sia da questo punto di vista non ha un curriculum meno importante di altri ministri, per cui non mi sento in grado di giudicarla per le competenze. No, lei ha semplicemente detto che non è all'altezza di fare il ministro, però va bene tutto. Ma perché non ero d'accordo su quell'esternazione e vorrei invece fosse un ministro che ci porta in però, Parlamento. È un ministro inutile, su, diciamo la verità. Questo lo dici. Beh, certo, lo dico io, certo, non c'è dubbio, lo dico io. Io penso che sia totalmente inutile, però Parenzo dice l'unica cosa, l'unico pregio che secondo me ha, che però su cui ha avuto un piccolo cedimento ultimamente, è quello che prima si faceva un po' scivolare tutte le cose addosso. Io la apprezzavo per la sua freddezza di fronte anche agli insulti, alle cose pesanti. Io dico di più e forse la senatrice sarà questa volta d'accordo con me. Anche qualora non facesse nulla, zero, ovo, niente, sarebbe comunque straordinario, perché è un segnale anche per tutti gli immigrati che sono nel nostro paese. Ma chi se ne frega? Lei non dovrebbe fare nulla. Cioè stare zitta, meglio che sia zitta. Bellissimo, avere un bellissimo. Questo non è male, meglio che sia zitta, onorevole Cantini, senatrice Cantini. No, io ho sentito come una statua, zitta, importante che sia nera, però, lì. Esatto, fondamentale quello invece. Ma io ricordo con Parenzo che non è di per sé indifferente, tant'è vero ha suscitato grandissime reazioni, la risata e attacchi proprio per questo. La Lega stappa bottiglie di champagne, lo sai. Sono abituata, ho fatto il sindaco 10 anni, sono abituata alla concretezza e credo molto nei ruoli che poi la Lega sta stappando bottiglie di champagne da quando è in carica, perché aumenta i voti. Ma la Lega fa una campagna che io non condivido assolutamente, certo. Tantomeno quella che fa strumentale sul ministro, anzi. Vabbè, torniamo a votare, va, senatrice, grazie, buona serata, grazie. Ministro incapace, non è proprio all'altezza di fare il ministro, la Chienghela, non è che l'ho detto io, lo dice una senatrice del Partito Democratico. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Oh, siamo qui con Simone da Milano. Adesso ci rompono i marroni con questa storia dell'11 settembre. Ci rompono i marroni con questa storia dell'11 settembre. Vabbè. Sì, buonasera. Avanti. Io non rompo i marroni. La voglia. Già adesso leggo qua. 11, io ho solo una scritta, una linea. Simone da Milano, 11 settembre. Avanti con questa storia. Avanti. Benissimo. La mia è solo un'affermazione di questo tipo. A distanza di 10 anni ci sono milioni, se non miliardi, di foto, immagini. Sugli aerei che si schiantano, ahimè, sulle torri di New York, e non ce n'è una, soltanto una, neanche mezza sul Pentagono. Bene, la cosa non ci dorme la notte, lei? Non ci dorme la notte, lei? No. Bene. Non è il caso di parlarne in Parlamento? È il caso di parlarne al Parlamento italiano? Ma il Parlamento italiano è il caso di non parlare di nulla, secondo me. Vabbè, sì, non lo so. Perché non serve a nulla e si vede. Scusi, ma quando uno sostiene che ci sono che abbiamo i microchip sotto pelle, può essere credibile pure su un altro fronte o no? Se uno sostiene che gli americani ci mettono i microchip sotto pelle, cioè uno poi se parla di altre cose, uno dice no, scusa, però tu sei quello che ha detto che abbiamo i microchip sotto pelle. Dunque non puoi essere credibile. Se hai detto che ci sono i microchip sotto pelle e poi parli dell'11 settembre, c'è qualche problema, no? Sono portato a non crederti o no? Ma scusi, io non sto parlando di microchip, lo sta dicendo lei. No, primo. Ma quello stesso signore. Sto limitando all'aereo, alla foto di un'immagine di un aereo che si schianta sul Pentagono. Stop. Bene. Poi lei allunghi il brodo. Ma come non lo vuole. Sto allungando, non l'ha detto lei, l'ha detto un deputato. Si limiti al mio intervento. Ma io mi limito. Ma me lo deve dire lei a che cosa mi devo limitare? Scusa, se mi devo limitare oppure no, me lo deve dire lei. Vuole darmi un consiglio da questo punto di vista? Ma che tipo? Vuole darmi un consiglio? Si limiti a questo, si limiti a quest'altro o no? Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Sei ancora a casa, Simo? E cadono le ceneri della città. Ancora Mauro è incazzatissimo sul fatto che il presidente di Mediaset, Federico Confalonieri, sia andato al Quirinale a parlare con Napolitano, secondo alcuni a trattare la vicenda Berlusconi, su cui pare che Berlusconi abbia guadagnato qualche giorno, perché poi alla fine di questo si tratta, guadagnare qualche settimana, qualche giorno, e poi chissà. Domani passeranno gli spettri di oggi qui. Abbiamo un Presidente della Repubblica che tratta con una società privata, che è la NEF, un'azienda privata, più commissariati di così, non lo so. Abbiamo il Presidente Mediaset al Quirinale. Contro Napolitano, Mauro. Cerchiamo di prenderci per il sedere. Ma veramente smettiamo. Il Parlamento è ostaggio di un pregiudicato il Quirinale è connivente con un pregiudicato, tant'è che riceve nelle sue stanze i suoi complici, non si sa a che titolo e a che livello passeggino per le stanze del Quirinale confalonieri, Gianni Letta e non so chi altro, che non hanno neanche cariche elettive. Non riuscirò mai più a tornare a casa. Simone da Genova, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo prima di tutto solidarizzare con Parenzo perché è stato subissato da una serie di insulti, francamente, devo dire la verità, insopportabili. Questo quindi è in primo luogo. Vabbè, però poi? Volevo, no, ma arrivo ma, subito. Ma è abituato, dunque. Abituato, sì, non si preoccupa. Sì, ma lo immagino, però arrivo subito al dunque. Ho sentito dire il collega ex onorevole che si è scagliato contro la incostituzionalità, il non rango costituzionale della norma e della legge Severino. Però mi pare che i parlamentari tutti italiani non abbiano alzato un dito quando si è approvato e si è ratificato il Trattato di Lisbona, con il quale abbiamo ceduto la sovranità economica e finanziaria all'Europa. Va bene. Questo è dal mio punto di vista una cosa aberrante perché con questo ci hanno consegnato in mano a... Vabbè, poi vada avanti Simone, qui non è il posto per parlare di sovranità monetaria, questa roba qui. Vado avanti e arrivo al dunque. A mio modo di vedere questo paese è fottuto a causa della politica. Va bene, d'accordo. Del paese. E io auspico nella maniera più forte l'avvento di Alba Dorata. Vabbè, ma lei è malato di mente, lei è malato di mente, va benissimo. No, ci sono... io non sono malato di mente, non le permetto di essere malato di mente perché non è. Io l'ho offesa. Ma scusi, ma uno che vuole l'avvento di Alba Dorata, che vuol dire l'avvento di Alba Dorata? Mi spiego. Io voglio che i parlamentari e la casta che è il cancro del paese vengano spazzati via. Come? In che modo, scusi? In qualsiasi modo. Cioè come? In qualche cosa, lo sto dicendo. Me lo dica. Attraverso anche elezioni regolari che vengono spazzati regolari. Cioè elezioni in tutti i sensi, io spero che presto ci siano nuove elezioni bene. Ci sono state direzioni, quindi non so, vuole un altro aggettivo, non nuove, allora vabbè, elezioni, una cosa lei prima lei ha detto spazzati via in ogni modo, poi adesso dice elezioni, ma insomma Simone si chiarisca, spazzati via in ogni modo, ovviamente sotto il profilo elettorale in maniera legale, ma spazzati via comunque, spazzati via. Io ho il formulo il problema è che non lo decide solo lei, ha capito? Certo, ma non ho questa presunzione, caro Cruciani. Formulo, che vuole formulare? Cosa formula? Io formulo, rivendico il diritto di veder spazzata via l'intera classe politica che da dopo Craxi in poi ha governato questo paese. Lo rivendico con tutte le forze perché è una banda di inetti che ci ha rovinato falsificando i bilanci e ci ha fatto andare all'inferno, perché l'Europa così costituita è un vero inferno. Ma lei che ha votato alle ultime elezioni, Simone? Non glielo dico. Il segreto. Vabbè, glielo dico, guarda, io ho votato Grillo. Grillo alla Camera e al Senato? Ho votato Popolo della Libertà al Senato e Grillo alla Camera. Francesco da Napoli, ho detto tutto. Francesco da Napoli. Buonasera. Dica. E volevo dire una cosa, rispondendo quando l'altra sera parlava il senatore, dell'ex senatore dell'Utri, no? Sì. Per me, quando lui diceva che Mangone è un eroe, io non penso che lo diceva perché Mangone è un mafioso, diceva che Mangone è un eroe nel momento in cui è privato della libertà, va un giudice che gli dice: io ti mai. Sì, ma abbiamo capito benissimo come intendeva dell'Utri. Non ha detto che in assoluto è un eroe, è il suo eroe, perché non ha parlato questo? Ma no, un momento, non che non ha parlato, che non ha chiamato in causa dell'Utri, non ha parlato. Sì, dell'Utri quanto... e Berlusconi, non ha chiamato in causa dell'Utri e Berlusconi. No, però dell'Utri non intendeva così. Perché vabbè, ma che ce ne importa a noi adesso di questa vicenda di dell'Utri, dell'eroe, di Mangano, eccetera? No, ma nel senso, io ce lo volevo dire, nonostante io sono un uomo di sinistra, assolutissimamente non sono né di destra né allora... di destra. Allora io volevo dire che Mangano, dell'Utri è stato frainteso, perché dell'Utri intendeva che... Ma non è stato frainteso, l'abbiamo capito Francesco, nessuno ha detto che ha parlato di eroe in assoluto, non ha detto che bisogna fargli una statua, ha detto infatti che vuole mettere una foto a casa sua, cioè a casa sua, non in piazza. Ha capito o no? Sì, ma io sono favorevole. Ma lei sarà favorevole, ma nessuno aveva capito un'altra cosa. Cioè, questo che abbiamo capito tutti. Adesso ti faccio sentire una persona che si chiama Chiara Azzori. Chiara? Azzori, è una professoressa, è un infettivologo, un medico che lavora all'ospedale Sacco di Milano. Sì. Senti cosa dice sull'omosessualità. Ti prego, senti cosa dice sull'omosessualità. Radio Maria, eh? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono da Spezia. Sì. Faccio parte di un gruppo religioso del terzo ordine, no? Francescano. Sì. E tra di noi ce n'è tanti che pensano di legalizzare l'omosessualità. No? E anche ho incontrato frati, preti che pensano così, ma io dico anche come legalizzare la droga leggera. Secondo lei, se si legalizza tutta questa storia, che per me non va legalizzata perché, come diceva appunto lei, Dio ci ha fatto così e così dobbiamo essere, secondo lei va ad aumentare questa AIDS o va a diminuire? L'AIDS aumenta o diminuisce? Senti la risposta. La risposta possiamo dire che era già nella conversazione di oggi, però sì, certo. Personalmente sentiamo. Credo che non sia ragionevole negare che nei paesi dove è avvenuta la normalizzazione della omosessualità e quindi in qualche modo la depatologizzazione intesa come così, equiparazione come appunto un dove modo è stato di introdotto il matrimonio primato, tra gay, i risultati sanitari sono stati devastanti, cioè? Questo è il dato di realtà appunto che si evince sia dagli studi epidemiologici degli Stati Uniti d'America, ma quando mai? Direi ancora di più dai dati inglesi in cui veramente cosa si evince? La prevalenza delle infezioni nella popolazione omosessuale sono estremamente elevate. C'è questa signora su Radio Maria, professoressa nonché medico a Milano, sì, medico all'ospedale Sacco a Milano, sostiene che secondo i suoi dati dove nei paesi dove è stato introdotto il matrimonio omosessuale ci sono più malati di AIDS, cioè più infezioni, più... Ma dove insegna la madame? No, ma non lo so, è non lo so. È infettivologa. Illuminanti teorie. Ma che infettiva? Ma dove? Senti ancora, ti prego. Anche la propagazione di una normalizzazione dell'omosessualità. Cioè il matrimonio gay, su. Incrementare anche i comportamenti cosiddetti esplorativi. Cosa vuol esplorativi? Dire? Che vuol dire? Appunto anche la bisessualità a questo punto diventa una norma, ma se nel gruppo del comportamento omosessuale esiste un altissimo rischio, il ponte della bisessualità lo porta fuori dal gruppo dell'omosessualità. Bene. E lo in qualche modo apre anche a quella che è la stragrande maggioranza della popolazione, che è invece eterosessuale. Questo è il dato di realtà. Cioè lei dice che sostanzialmente ci sono, se c'è il matrimonio omosessuale, ci sono più bisessuali, cioè nei paesi dove viene introdotto il matrimonio c'è una regolarizzazione, alla fine diventiamo tutti froci. Quella è la sostanza. Sentiamo ancora, guarda che quest'altra cosa è buonissima, senti. Capire che non si tratta di stigmatizzare come brutti e sporchi e cattivi quelle persone, quegli individui che hanno orientamento omosessuale, ma riconoscere un dato oggettivo. Oggettivo, certo. In quel tipo di orientamento esiste una tendenza alla promiscuità? A comportamenti autodistruttivi narcisistici, all'abuso di droghe, eccetera. Abuso che di droghe. Legato intrinsecamente a che cosa? A quell'orientamento. Cioè, lei dice non bisogna dire che sono brutti, sporchi e cattivi, capito Parezzo? Però sono promiscui, narcisisti, autodistruttivi e se drogano. E questa fa l'infettivologa, è una professoressa, amici miei. Questo. Salvatore da Bari, buonasera. Non c'è Marco da Roma. Ciao, buonasera. Buonasera caro, buonasera. Dica. Stavo pensando una cosa, visto che io faccio il tassista a Roma, no? Sì, grande, grandissimo, i tassisti di Roma li adoro, anche quelli di Milano, A volte mi trovo col cliente di dietro o la cliente che rimane scandalizzata proprio. Sì, sì. Scandalizzata da tutte queste parole che dite proprio. Ma che scandalizzata di cosa? Se le dicono pure loro in privato, tutti quelli che dicono. Vabbè, però sai, una radio non è che Però mi è venuta un'idea. Però abbassi il volume, Marco, se no lo sentiamo il ritorno. Mi è venuta su un'idea, te la volevo suggerire. No? Suggeriscimela, caro. E dai. Se te e Parenza andate da Cencio alla Parolaccia, a Trastevere. Ma quello è il ristorante, va bene. Subito capometre e vice capometre. Perché lì più parolacce dici e più bravo puoi sei. Puoi fare di meglio, puoi fare di meglio. Poco originale, poco originale, poco originale. Comunque siete due cazzoni molto simpatici. Va bene, Marco, grazie. Ti abbraccio. Salute, che turno fai? Che turno fai, Marco? Sto facendo il pomeriggio fino alle 10. Caro. Vabbè, tra poco hai finito. Ah, allora, guarda, che io tra poco mi muovo qui da me. Se sei in zona. Vuoi andare a prendere Parenzo, Marco? In zona dove? Guarda, io sono a. Vabbè, diciamo, dato che se ne frega. Sono davanti alla FAO, praticamente, a Viale Aventino. Dimmi ancora devo venire, almeno voglio vedere tutti questi insulti che ti fanno. Guarda, se ce la fai, così non chiamo, se ce la fai alle 8:45 facciamo l'ultimo quarto d'ora insieme in macchina. Va benissimo, io sono Genova 14. Allora, Genova fratello, 14, guarda, 20 e 45, dove 20 ti devi? 45, io... No, Viale, ti do anche l'indirizzo, dato il numero che non mi interessa. Viale Aventino 26. Ah, va bene. Se dove tu vieni, c'è, io scendo. Diciamo. Sì. Viale 21-26, là 20-45. Allora, davvero però, eh? No, Marco, ciao, guarda, che poi, guarda che poi quello deve trovare un altro d'assista, No, ce vengo io, voglio conoscere Parenzo. Vabbè, grazie Marco. Va bene, ciao, facciamo l'ultimo quarto d'ora di radio insieme in questo grande racconto popolare. Ma ottimo, quale grazie racconto popolare? Massimiliano dalla provincia di Latina, buonasera. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire su quando riguarda il Festival Boreal che devono fare. Sì, ma chi se ne frega? Io non so cosa sia il Festival Boreal, me ne fotto totalmente. Cioè, voglio dire perché in Italia cioè tutto ciò che va controcorrente, che ce ne fotte. Scusate, ma sono cose di. Sono frattaglie, sono cose. Ma sarà un raduno di movimenti extraparlamentari di tutta Europa, di 12 movimenti partiti extraparlamentari europei con deputati europarlamentari dove si parlerà non di menare la gente come tutti dicono. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Si discuterà di problematiche europee, di immigrazione, di lavoro e di tante altre cose. Cioè, vabbè. E questo volevo dire. Vabbè, Massimiliano, arrivederci. Ma nessuno dice che. Ma la verità fa male. Ma quale verità? Verità di cosa? Perché nessuno ne parla? Ma perché avete tanto paura dei fascisti? Ma facciamo così paura? Ma perché non ne parla? Ma lei è fascista? Io sono fascista, ne sono fiero. Di questa democrazia io sono fascista. Non sono quello fascista che scende in piazza. Oh, finalmente uno che. Finalmente uno che parla chiaro, uno che dice io sono. A prendere a casa, arrestare, non ma chi l'ha detto? Ma chi ha detto? Però in Italia tutto ciò che è fascista o qualsiasi cosa che si organizza un movimento giovanile di destra e estrema destra viene messo al bando. Ma al bando i dove si trovano e si ammazzano, quelli sono autorizzati. Parenzo, allora, rispondi. Il problema in Italia qual è? Il problema ma è che c'entra il gay? Che c'entra il gay pride? No, scusa. Perché in Italia allora si fa il gay pride, si fanno i perché che fastidio le dà il gay pride, scusa? Che fastidio sta dando il Boreal Festival? Ma infatti nessuno lo vuole fermare, nessuno lo vuole fermare. Ma lei si informi? No, ma nessuno, sto dicendo, noi non lo vogliamo fermare, secondo me. Guardi, io se potessi, non è che lo fermerete che sono liberale. No, questo è sbagliato. Se uno dice, se uno propaga e propone idee palesemente razziste, per me va contro la Costituzione, ma non è questo il tema. Io capisco quei sindaci che hanno il vomito di avere questa gente nel loro territorio e negano l'autorizzazione a fare questa manifestazione. Questo per me è magnifico, questo per me è superlativo. Poi, per carità, si può discutere, ma plauso a quei sindaci che dicono questa immondizia, qua non la vogliamo, fate da un'altra parte. Ma applauso, sbagliano tutto. Vabbè, Massimiliano, lei è fascista, giusto? Ma che vuol dire essere fascista? Scusi, lei vorrebbe stare nel fascismo, nel periodo del fascismo, no, con un duce, con un dittatore. Mi spieghi che significa io sono fascista? Mi spieghi? Ma perché la democrazia attuale non è dittatura? Ma lei può parlare qui alla radio con me perché c'è la democrazia, imbecille. Sì, però prima cosa non sto offendendo nessuno. Ecco, dai, su. Dittatore perché mi sta chiamando imbecille. Ma no, ma mi offendo. Ma sottostare. Perché lei mi dice imbecille. Ecco la dittatura qual è. Certo. La dittatura è essere obbligata a seguire delle regole che a me non stanno bene. Anche nella democrazia, questo è dittatura. Sì, dittatura. Anche questa è dittatura. Ma quale dittatura? Scusi, Massimiliano, adesso abbia pazienza. Lei sta e riesce a parlare qui liberamente e a proclamarsi fascista perché c'è la democrazia. Se questo lei non lo se lei questo qua non lo capisce. Senta, caro Massimiliano, già è grasso che cola, è grasso che cola. La democrazia consente a lei di proclamare alla radio di essere fascista e di non essere messo al gabbio, ha capito? Di proclamare alla radio di dire cose che volete dire voi. Ma quando? Ma lei può dire quello che vuole, sto dicendo, lei, questa democrazia le consente, questa democrazia che lei disprezza, le consente di intervenire alla radio, di dire quello che vuole, le peggiori stupidaggini, se lei dice delle stupidaggini, delle cose intelligenti, se dice delle cose intelligenti, e di dire che, di essere fascista, ha capito? Il fascismo che lei, di cui lei si proclama adepto, ammiratore, eccetera, eccetera, queste cose non le consentirebbe, ha capito? Sì o no? No, non le consentirebbe, ha capito? È abbastanza chiaro, il fascismo è una dittatura. Se a lei non è chiaro, si faccia un po' un ripasso. Caro David, siamo qui a combattere insieme al sindaco di Verona, Flavio Tosi, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Che becchiamo come al solito di ritorno dal comune verso casa o verso chissà quale comizio o festa della Lega in macchina. Esatto, questa è l'ora in cui mi muovo in macchina. David, dove diavolo sei? Sei già andato dal tassista? No, quello arriva alle 20.45, sono dentro la war room. La war room. Ecco, sta war room, porta sfiga, non pronunciare sta parola war room, ti prego. La war room, di guerra. Appunto, togli questa, non pronunciare queste parole che hai già dentro pronunciato. La stanza dei bottoni, se no volevo salutare il segretario federale della Lega Nord, signor Tosi. No, non sarà lui, poi te lo spiego chi sarà il nuovo segretario della Lega. Sì, beh, può darsi. Senta sindaco, ma ditemi. Si è candidato alle primarie, chissà se ci saranno, ancora bisogna risolvere il problema Berlusconi e del centrodestra, ma Parenzo, secondo te non ha bisogno di un ritocco al look il signor Tosi per proporsi come candidato alla premiership del centrodestra? Cioè non va, quando va in televisione non è un po' dei colori, il tipo di giacca eccetera, deve cambiare qualcosa Parenzo, sì o no secondo te? Ma lui veste da io lo conosco da 20 anni, è da 20 anni che ha la stessa giacca, è sempre, e l'ha anche la sua forza alla fine. No, la stessa non credo. Si assomigliano tutte perché probabilmente non ho buon gusto, le compro tutte uguali, però che c'è sempre la stessa. No, la stessa no. Guarda, è la stessa, la conosco da 20 anni, gli voglio anche bene. Forse veramente sono un po' monocorde nel vestire, forse sì. Cioè, monocorde nel senso... E poi probabilmente mi vesto pure male, da quello che capisco, ma a me è pazienza. Cioè, lei usa per esempio un marroncino ogni tanto, un verdognolo, ma non verdognolo Lega. Ma è il suo stile, è il suo stile. Ma è... ogni tanto un giallino, un camice, una volta però penso che i veronesi preferiscono avere un sindaco che sa far bene il sindaco. Vabbè, ma quello anche se non è un dandy, non mi risponde. Quello non è fondamentale. Beh, sì, non è fondamentale, non è che lei deve andare. Non è vero che l'abito non fa il monaco. D'accordo, però io non dico che lei deve andare in giro come un pinguino da matrimonio, per carità. Però adesso che ne so, ogni tanto questo è il mio giudizio, perché a prescindere da tutto. Ma uno. Io sono uno pratico. È uno pratico, Un paio di pantaloni, una camicia. Cioè, meglio le scarpe da meglio le scarpe da ginnastica, per esempio, che le scarpe che i mocassini eleganti. No, beh, allora diciamo, non bisogna esagerare nell'una e nell'altra parte, non puoi andare in giro in ciabatte e neanche esagerare con l'eleganza, secondo me. Parenzo? Ma lei è uno che usa, ad esempio, ma lei è uno del partito dei boxer o degli slip? Per capire. No, questo è interessante, boxer o slip? Che interesse abbiano a sapere che il sindaco porta i boxer. Beh, comunque, il sindaco porta i boxer, vabbè. I boxer. I boxer però sono... Ma i boxer con la spada di Alberto da Giussano, quelli che facevano... No? Ha mai messo le mutande della Lega? C'erano state pure... I boxer li compro al mercato. Al mercato? Al mercato. Lei va al mercato e spende 5 euro per 3 boxer, 5 euro 3 boxer tutti insieme. Adesso potrebbe magari costano 3 euro l'uno, però compro il boxer al mercato. Boxer da 3 euro, sindaco Tosi, ma è una cosa pazzesca, i boxer da 3 euro, ma quelli non tengono, si sfasciano, si rompono subito. Beh, devo dire che anch'io probabilmente perché l'euro spendaccione, non so, io dipende dai. No, ma anch'io devo dire la verità, Parenzo. No, è un taccagno pazzesco, Cruciani. No, ma non è vero, ma io ogni tanto vado al mercato, anch'io mi compro i calzini al mercato. Cruciani, mentre si figuri, sindaco, che Cruciani usa gli stessi boxer per 3 giorni e li gira e li ritira ogni volta. Ma non è vero. No, ma Cruciani, sì, li gira diverso, li gira diverso. Cioè, c'era la mattina, io ho fatto dei viaggi con lui, c'era sempre gli stessi, la mattina in un verso, il giorno dopo li girava. Ma ci siamo incontrati a un matrimonio sabato con il sindaco, può, insomma, può anche non ha visto le mutande. Io Cruciani do atto, sinceramente un figlietto nel vestiere, fin troppo. No, ma in realtà non sono troppo ricercato. Comunque i boxer, abbiamo detto, boxer da 3 euro al mercato. Ma al mercato a Verona? Beh, perché di solito vado a fare il giro sui mercati e quindi ci sono. E quindi là si compra, diciamo, i boxer. Le calze, i boxer, la canottiera. Ah, perché lei porta la canottiera? Io porto sempre la cosiddetta maglietta della salute. La maglietta della salute, ma lei è proprio antico, è una cosa pazzesca. È un giovane antico in realtà. Cioè, è un antico, viene a fare il bagno col bene il lago di Garda il primo dell'anno, poi vediamo chi è. Ah già, è vero che lui fa questa impresa. Senta, ma parliamo di una cosa, sì, per il centrodestra, le primarie, chi se ne frega, poi alla fine. Ma lei si è un po' riavvicinata a Berlusconi perché aveva litigato in maniera un po' in maniera furibonda prima delle elezioni. Alla fine adesso ha fatto un po' pace oppure no? No. Pare che con Berlusconi non ho mai litigato. Ma come no, Tosi, no. Su, ma ha detto di tutti i colori su Berlusconi a un certo punto. No, non neanche detto di tutti i colori. Ma come no? Ma ha detto che era finito, che era morto. Ti rispetto al fatto che... Non si sente più niente, aspetti che non si sente più. Tu, chi è? Parenzo o Tosi questo qua? È Tosi, no, Massimiliano da Milano. Ma chi è? Ma chi è? Massimiliano? Cos'è che canta? Massimiliano? Pronto? Dica, chi è che stava cantando? Mia moglie e mia figlia che cantavano, perché stavo preparando la cena, allora loro intanto cantavano. Beh, una bella scena questa qua, è una bella immagine questa. Guarda che... Io l'ho già detto anche un anno fa, io l'aspetto a cena, se vuole anche con parenti. Vabbè, ho capito, ma non è che adesso io devo essere sicuro dove vado, non è che vado là poi mi ammazzate. Allora, mi offende subito, manco ci conosciamo e già mi offende. No, sicurito. Poi mi ammazzate. Viene qua, le garantisco una cena, le garantisco 5 figli, un po' di casino. 5 figli, vabbè. Non è detto che non si farà. Allora, Massimiliano, infatti. No, io volevo sapere invece questo, perché mi ha incuriosito molto. Volevo sapere dove avete preso una laurea in medicina, perché sentivo che... Allontani un attimo, Sofì. La chiuda in una stanza. Ma chiuda il bambino in bagno, scusi, no, con la chiave. Non scherziamo sui bambini. Parenzo e i suoi bambini fa quello che vuole. Io faccio anche urlare perché possono urlare, sono a casa mia. Però vi stavo chiedendo, ora mi sono allontanato. Sì. Dove avete preso la laurea in medicina? Perché sentivo che criticavate la professoressa Azzori. Dai, mentre in particolare quando una cosa non dissimile ha detto il professor Veronesi. Quindi mi chiedo, non ha detto, ma non è vero che ha detto questo il professor Veronesi, non è che ha detto che non tra... ho detto che ha detto questo, ho detto che ha detto una cosa, no, ma ha detto che il mondo va verso la bisessualità, questo ha detto. Ho capito, ed è una cosa divertente tanto quanto quella che ha detto il professor Azzori, ma non ha detto quella, ma sono due cose completamente diverse. Comunque resti là un attimo, Tosi, scusi, Verona potrebbe essere una città gay friendly? Ma Verona è una città tollerante e con persone di buon senso che ma il gay pride lo ospiterebbe o no lei? Ma il gay pride è non le piace, secondo me, quando dicevo buon senso e misura, no? È un fatto di, allora ovviamente ognuno ha il sacrosanto diritto e vabbè, quello mancherebbe altro di rispettare, certo, la propria sessualità. Però io il gay pride non lo voglio, non è che non lo voglio il gay pride, ma io penso che forse chi lo organizza sbaglia da quel punto di vista. Cioè, fare una cosa che sembra una carnevalata, non so quanto aiuta il fatto di voler trovare una condivisione. Per cui a Verona lei non ce lo vuole perché è una carnevalata. Ma se chiedono di farlo, hanno diritto di farlo, una manifestazione, ci mancherebbe altro che si viene. Però il patrocinio del comune. Noi abbiamo dato il patrocinio un paio d'anni fa, la mia amministrazione, a un evento teatrale che quella è un'altra cosa. Chiesto, ispirato dalle associazioni. Adesso non mi ricordo più se era dico perché lei parteciperà a un convegno nei prossimi. E 2 anni fa gli abbiamo dato il patrocinio, ma perché? Ma perché comunque ognuno ha diritto di dire la propria opinione. Però scusi, e quindi ha dato patrocinio a un convegno che dice esattamente l'opposto. Esatto, lei parteciperà a un convegno dove è pieno di omofobi, di gente che pensa le cose peggiori dei gay, che sono il saluto iniziale lo portiamo io e il vescovo di Verona, se voi pensate che il vescovo ha fatto omofobo. Lo sa chi partecipa a questo convegno? Cioè, se lei si informa, forse qualche dubbio lo avrà, perché ci sono persone che pensano innanzitutto che gli omosessuali sono malati. Cioè, tra i relatori è di questo. È un'opinione legittima. Se uno ma come legittima? È sbagliata. Ma certo legittima. Che... È reato. Ma no, ma certo che non è reato. Allora, che c'entra? Cercate di avere un po' di democraticità anche voi, perché quando ci si riempie la parola democrazia bisogna poi anche essere democratici. No, ma per me questo qua uno può venire a dire a Verona che l'omosessualità è la cosa più bella del mondo e vorrebbe che tutti diventino omosessuali e lo può dire, e uno può dire l'esatto contrario. È democrazia questa, non è reale. No, ma sono d'accordo con lei, però se lei dà il timbro e la presenza a questo evento, ecco, in qualche modo lo fa suo questo evento. No, lo faccio fare, ripeto, abbiamo dato il patrocinio 2 anni fa a uno spettacolo chiesto da, non mi ricordo più se l'Arcigay o Arcilei. Ho capito, ma non è che l'Arcigay dicono che gli eterosessuali vanno e sono malati, e l'Arcigay fa un evento in cui parleranno dei diritti degli omosessuali. Sempre per un fatto culturale, fino a qualche anno fa l'OMS metteva nelle categorie delle malattie l'omosessualità. E dunque? Facevano bene? E dunque, siccome era l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, o lei pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fossero tutti omofobi, razziste, persone antidemocratiche. Per cui lei è convinto che sia così un po'? No, sto dicendo che bisogna avere un po' più di rispetto dell'opinione altrui. Uno può avere un'opinione sbagliata. È sbagliato dire che pensare che sia una malattia l'omosessualità. Ma non è che io devo impedire a uno di dirlo. Ma no, ma questo nessuno vuole impedirlo. No, è diverso. Se lei come comune dà il patrocinio a un evento del genere, in qualche modo, voglio dire, no. Ma ripeto, abbiamo dato il patrocinio a un evento che era totalmente contrario. Ma non è contrario, non è la stessa. Se uno dice i gay sono malati e l'altro invece promuove la cultura gay, non sono sullo stesso piano le due cose. Sono due cose completamente diverse. Comunque, vabbè, abbiamo la borsa, poi torniamo. Se l'Arcigay o l'Arcilevico volessero fare un convegno dove dicono che gli etero sono tutti malati e lo facciano, gli diamo lo spazio, non è mica un problema. Va bene, non è mica un problema la libertà. Forse dovreste andare un po' negli Stati Uniti a imparare cos'è la libertà. Guardi, per me possono parlare anche i peggiori, impedire la parola ai peggiori nazisti, non sto parlando di lei ovviamente, né di altre persone, in generale impedire che uno che la pensa anche in maniera estrema su temi di questo tipo è un errore. Ormai è tutto degradato. Qualcuno forse si è dimenticato, caro David, dello spettacolare intervento ieri sera qui alla Zanzara dell'ex ministro della difesa Antonio Martino, il quale ha detto: faccio l'amore solamente, spesso mi è successo di fare l'amore, cioè di trombare, solamente per la sigaretta post-coitale, cioè dopo aver fatto l'amore eccetera, se fuma la sigaretta e gode di questo. Non mi chieda perché faccio o facessi l'amore, perché quasi certamente le risponderei che per la sigaretta post-coitale. Cioè, lei, le sigarette più straordinarie che ci sia. Cioè, lei mi sta dicendo che la maggior parte delle volte che ha trombato, esatto, l'ho fatto quello che ho detto io, era per la sigaretta che viene dopo, che è una delle cose più belle della vita, perché l'atto è vasodilatatorio, il fumo entra e dà piena soddisfazione, un po' vasocostrittore. Adesso io francamente questa cosa non la so, che l'atto sia vasodilatatorio può essere, anzi sicuramente lo è. Però che poi la sigaretta ti faccia godere dopo, io non l'ho mai provato, non ho mai fumato in vita mia. No, la senti molto di più, perché se uno è vasodilatatore, sì, l'altro è vasocostrittore, quindi dice senti molto di più l'effetto del fumo che ti va in circolo molto di più, questo sostiene il professore. Sindaco Tosi, lei condivide questa teoria del professor Martino, già ministro della difesa peraltro? Non fumo. Non fuma, dunque non lo può sapere, no? Esatto. Non lo può sapere. Vabbè, io ci ho provato, magari fumava e anche lei apprezzava questo tipo di... Senta, chi sarà il prossimo segretario della Lega? Maroni. Beh, il prossimo ancora, dopo Maroni. Dopo Maroni speriamo che il tema si ponga il più avanti possibile adesso. Lei dice che non bisogna... Non è il caso di fare un congresso federale adesso, io Maroni gliel'ho detto un sacco di volte. Per cui... Deve rimanere Per quanto tempo ancora? Beh, insomma, il suo mandato naturale scade fra un anno e mezzo, credo circa, quindi direi che... Bisogna aspettare un anno e mezzo. So che per lui è, dal punto di vista, diciamo, del riuscire a fare ultimare i due impegni, non è semplice, ve lo capisco, però secondo me io quello che gli ho sempre chiesto è se è possibile di fare... miracoli e riuscire a far colimare le due cose. Senta una cosa, ma se lei fosse in una giunta, nella giunta che deve decidere sulla sorte di Berlusconi, voterebbe la decadenza, sì o no? Ma io, siccome si è scatenata la solita guerra fra bande, quelli con Berlusconi e quelli contro Berlusconi, e siccome Violante, che sicuramente non è ascrivibile al centrodestra, è sicuramente una persona che la materia di competenza ne ha molta, e allora? È una nota vicinanza, anche almeno così mi risulta, col Presidente della Repubblica, quindi insomma è autorevole. Lui stesso ha detto che forse sarebbe il caso di verificare attraverso la consulta se la norma è applicabile, in che termini, quella che si... Cioè lei non lo farebbe decadere subito? No, io chiederei un parere della consulta, perché siccome ci sono quelli che sono contro, che ce ne sono alcuni per carità in buona fede, alcuni altri che sono contro a prescindere, perché Berlusconi bisogna... Lei mi è ridiventato di alcuni nuovo... Alcuni che lo difendono, alcuni che lo difendono solo perché è Berlusconi, allora bisogna difenderlo in qualsiasi caso, qualsiasi costo, invece la cosa più equilibrata è quella, visto che anziché fare appunto un giudizio amicale, di dire mi sono amico, voto a favore, mi sta sulle balle, scusate il termine, voto contro, molto meglio dire valuti la consulta come se va applicata la norma e poi si vota tutti, che sarebbe anche la cosa più bella, anche dal punto di vista penso del popolo, che penso apprezzerebbe molto, si vota tutti in base a quello che dice la consulta. Vabbè, ho capito, adesso non è che lei propone una cosa, si vota tutti, tanto si voterà sempre in base al fatto che alcuni vogliono salvare Berlusconi e gli altri lo vogliono eliminare. È vagatissimo, in una democrazia moderna e che... Quindi, ma la norma è già chiara, Tosi, la norma è già chiara, per me è già chiara, è evidente che è talmente chiara che Luciano Violante dice che non lo è. Ma non è vero, lui dice, a parte non è che ha detto che non è chiara, ha detto che non trova ha detto che sarebbe opportuno chiedere a consulta il parere sull'applicazione retroattiva. Non trova scandaloso, se la cosa andasse a finire la consulta. E in effetti è un ragionamento che fila, perché visto che si tratta di far decadere una persona da una carica alla quale è stata eletta, prima di fare una scelta del genere, chi si chiami Berlusconi, che si chiami... Ma altri sono già decaduti, altri sono già decaduti comunque. No, in base a questa norma proprio per la Severino, come no? In base a questa norma no. Come no, 37 persone sembra. 37. Ma dove? Ma mai? Sì, non parlamentari. Appunto, allora, non parlamentari. Allora. Senta, mi dica una parola definitiva sulle Olimpiadi a Roma. La prospettiva delle Olimpiadi a Roma l'atterrisce? La prospettiva delle Olimpiadi a Roma? Ma secondo me le Olimpiadi si dovrebbero portare in Italia, sperando che da qua al 2024 sia fuori dalla crisi e così abbiamo i soldi per farle. Però... E dopodiché si dividono a Venezia, che ha una delle location favolose dove poter fare discipline, a Roma ad altre, a Napoli ancora altre, magari a Torino qualcos'altro. Cioè in tutta Italia, dice lei. Già che ci sono, facciamo qualcosa anche a Verona, che è la mia città, Firenze o quant'altro. Cioè, ma non esiste la candidatura delle città, Tosi, lei propone una cosa, la candidatura dell'Italia, ma è impossibile. Guarda che le Olimpiadi si fanno in un paese, in una nazione. Ma non è vero, in una città si fanno. Si fanno in una nazione, non si fanno necessariamente in una sola città. Ma Roma è in grado di organizzarle, secondo lei? Roma è in grado Roma, come in grado Venezia, come in grado Palermo, altre città d'Italia, ma il punto è che secondo me se dividiamo gli eventi su più piazze andiamo a creare maggior armonia e avere maggiori possibilità di successo, perché se cominciamo a dividerci da me anziché da me siamo fresi. Va bene, grazie sindaco, a presto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Margherita, provincia di Roma, Margherita. Buonasera, dottor Cusciani. Come sta? Sono Margherita della provincia di Roma. Signora mia, come sta? Mi dica. Abbastanza bene, insomma, vista l'età che non è più verdissima. Io le volevo dire una cosa, perché la sua trasmissione è bellissima. Sì. Io la stimo e l'ammiro come persona intelligente, preparata, allora? E mi piace tantissimo. Ascolto sempre, certo, appena quando posso, ascolto sempre la trasmissione. E allora? Ma perché ultimamente state scivolando in una volgarità che veramente, come si dice esecrabile? Perché abbiamo una lingua italiana che è così bella e piena di vocaboli. Perché per sottolineare determinate cose? Ma la volgarità non esiste, diciamo qualche volta la parola cazzo, signora, su, ma non si esalta. No, ma quando mai? Io prima ho ascoltato, dico mamma mia, ma com'è possibile? Ma chiunque interviene si crede intanto autorizzato a parlare così, è lei stesso che non lo faceva prima. Ma io la abbraccio e la stringo fortissimo. È con noi un mito assoluto, regista, ma forse più che regista è un aspirante politico, un politico a tutto tondo, caro Parenzo, un personaggio che si chiama Massimo Emilio Gobbi. Buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Come sta? Bene. Che si dice lì? Lei che cosa sta facendo in questo momento? Cosa sta girando? Sono in albergo e mi sono appena svegliato in questo momento. Ma come si è appena svegliato? Come fa? Non fa un cazzo la mattina e la sera lei? Oppure lavora fino a... lavora di notte? Che fa? Lavoro anche di notte, sì. Ma che fa? Il regista? Che fa, signor Gobbi? Lo sapete voi cosa faccio. No, sta girando un film su cosa? Scusi, ci spieghi. Il film è sulla vita di Corona, ma film sulla vita di Corona. Spero sia l'ultimo e poi comunque e poi riprendo il Kennedy italiano, credo. Cioè riprende il Kennedy italiano, cioè riprende che cosa? L'aspirazione di riprendo a fare politica come lo fanno gli altri. Ma lei da che parte sta? Da che parte sta lei, signor Gobbi? Io ho una visione un po' diversa di quello che c'è sul mercato. Cioè? Per me già il discorso che è italiano deriva dal fatto che un giornalista che ha partecipato alla mia convention ancora all'epoca mi ha dato questo soprannome e per me... può anche star bene, non è che mi cioè lei preoccupa. Si sente veramente il Kennedy italiano? Ma per me non esiste, per dire, la Lega è passato, remoto. Per me l'uguaglianza è da Aosta a Messina, dove c'è il pilone, là, sa dove c'è il pilone a Messina? Sì. Per cui per me vedo un'Italia con sanità gratis per tutti, libertà sessuale, gay, non gay... trans, non trans, tutte cose che guardare queste cose ormai in Italia siamo nel 2014, siamo proprio. Cioè, lei qual è il suo programma politico? Me lo spieghi? Ma il programma politico le sto dicendo. Per me non è, la Lega dovrebbe sparire. La Lega sparire, poi? Sparire, poi. La sanità è qualcosa di indecente, perché se lei va al pronto soccorso adesso le fanno pagare un ticket. Vabbè, sanità gratis per tutti e poi? Per tutti. Libertà sessuale a destra e manca. Sì, cioè? Puttane, non puttane, casini, via. Cioè, non via, non via. Cioè, diciamo... libertà sessuale, non più. Ma adesso ce n'è di libertà sessuale. Non ma quale libertà sessuale? Di cosa? Perché? Libertà adesso di cosa sessuale? Ma se stiamo ancora a parlare se uno è gay, non è gay, le coppie, se sono coppie di fatto, non coppie di fatto, ma se uno si vuole sposare un uomo, si sposi un uomo, finito, qual è il problema? Cioè, non ho capito perché dobbiamo ancora guardare. Cioè, tutti possono sposare tutti? Tutti si devono sposare, cioè io mi voglio sposare con un amico, con un compagno, mi sposo, punto e fine. Vabbè, qual è il problema? Se voglio sposare un animale, non credo che lei sia d'accordo, no? No, ma no. Stiamo parlando di esseri umani, scusi. Legalizzazione della prostituzione, naturalmente. Cioè, stiamo parlando di esseri umani. Sì, assolutamente, assolutamente. Okay. Tu lo sai come si chiama il film che sta girando, Parenzo, signor Gobbi? No, io aggiungerei a questo programma... cioè che è libertà sessuale, sanità gratis per tutti... Aggiungerei un'altra cosa, che è quella di svegliarsi alle 8:30 e non fare un cazzo tutto il giorno, perché mi pare che appartenga, come dire, no, ma ha lavorato, dice di aver lavorato, per questo è svegliato. Io ho lavorato fino alle 6, alle 18 questa sera. E poi si è fatto il sonno. Logicamente, siccome ho 20 anni più di Parenzo, e siccome che Parenzo l'ho conosciuto già 20 anni fa, che me l'ha presentato un direttore di giornale all'epoca, dove io ho offerto anche il pranzo quel giorno. Pure, come Sgarbi. Mi ricordo, Non so se si ricorda Parenzo di me. No. Ma beh, no, il film che sta girando si chiama La fuga, Marcia, di Scarface, che è la posso, fuga... A parte che Parenzo ci conosciamo, perché voglio dire, a parte quella storia di 20 anni fa... Che è successo 20 anni fa? Ma 20 anni fa un giornalista, un direttore di giornale, tale Italo Tassinari, che adesso non so se sia ancora vivo, comunque mi ha detto devo presentarti un giovane rampante, giornalista, si è presentato questo con il Vespino, è venuto allo Sheraton, è stato a pranzo da me, poi, ma l'impressione mia era che era venuto solo a pranzo, insomma. Dov'era questo posto? Allo Sheraton di Padova. Allo Sheraton di Padova, perché lei abitava là, allo Sheraton, oppure in quel momento era lì? Io ho un quartier generale ancora adesso. Ma lei è ricchissimo o no? No, sono poverissimo. Povero. Traffico, torniamo subito, traffico. Faircam, spedizioni mare e aereo in mani sicure. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Strade in diretta. Sera, il traffico è bloccato per un incidente sulla 14 Adriatica nelle Marche tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Traffico rallentato per temporali in atto sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Seriate in entrambe le direzioni. In uscita da Roma sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico intenso tra Via Togliatti e Tor Cervara. Restiamo in zona per segnalare che è stata annullata la chiusura dell'autostrada Roma-Fiumicino prevista per questa notte tra la zona commerciale e l'aeroporto di Fiumicino. I lavori infatti si sono conclusi in anticipo. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra un'ora circa. La Zanzara. Quando la zanzarina tormenta la mia notte. È con noi il Kennedy italiano, regista ancora per poco, perché sta girando un film che probabilmente dice sarà l'ultimo suo film, La fuga di Scarface, che sarebbe poi in sostanza la vita di Fabrizio Corona, o sbaglio? Certo. Scusi, ma c'è anche una scena di Belen che si sposa? Abbiamo girato anche oggi questa. Chi è l'attrice? Un'attrice sconosciuta, io lavoro con gente sconosciuta perché non lavoro con i soldi dello Stato, sono un filmmaker, per cui mi autofinanzio per i cazzi miei. Scusi un attimo, ma lei davvero vuole fare un movimento politico? Cioè... Ma l'avevo già fatto all'epoca e mi sembra che non fosse neanche andato molto male. Cioè, che ha fatto? Come risultati? Ma no, insomma, avevo molte persone che mi seguivano, comunque. Oggi non sia mica difficile diventare leader, perché cosa c'è? Ma lei Berlusconi lo conosce? Abbiamo Grillo, dai, per piacere. Capito, ha preso il 25%, signor Gobbi. Sì, no, ma voglio dire, ok, perfetto, sì, voglio dire, quello che fa Grillo lo posso fare anch'io. Insomma, prende il 25%, non lo so, comunque. Io la parola, sa, io ho un mio vocabolario. Ma lei Berlusconi lo conosce? Sì. Allora? Conosco un po' tutti. Ma quando l'ha visto ultimamente? Conosco i Scilipoti, se gli interessa. Vabbè, Scilipoti. Vabbè, no. Lo conosciamo. Ma ha tirato una sola, comunque. Perché? Che ha fatto? Pure a lei ha tirato la sola, Scilipoti. No. Che ha fatto? Che sola ha preso? No, ma è stato a casa mia a cena, poi un giornalista del Corriere, un certo Leonard Barberi, un giornalista del Corriere della sera, ha detto che non mi conosce, era stato la sera prima, è stato a cena a casa mia. Parenzo? No, ma non capisco una cosa, voglio chiedere al Kennedy italiano. Al signor Federico Fellini che abbiamo in collegamento. Come mai di questi film non se ne è mai saputo un cazzo, sostanzialmente? Prego? Come mai di questi film che lei ha realizzato nel corso di questa lunga carriera, io personalmente, ma magari sono ignorante, non ho mai visto te rispondo. Devo darti del lei o del tu? O del tu? No, datevi del tu, dai. Datevi quello che vuole. Anche 20 anni di differenza di età posso darti del tu, per cui scusami, dai del tu tranquillamente. Allora Parenzo, tu lo sai benissimo che il mondo del cinema è così composto, ci sono due distributori in Italia, uno è UC Cinema e uno è The Space, uno gestisce 1200 sale, l'altro mi sembra 900, se non vado errato. Ho capito, ma la cosa più conosciuta che hai fatto... voglio finire, lui mi ha fatto una domanda ben precisa, ma sì. Come mai i tuoi film sono stati distribuiti? I miei film sono distribuiti in un portale americano che si chiama Cinema On Demand, per cui basta andare su www.cinemaondemand e ci sono tutti i miei film, sono 5 o 6. Per cui e l'ultimo film su Di Pietro, dopo l'accordo fatto con il dottor Blonna del gruppo The Space. Ma chi è? Allora? Allora, mi lasciate. Allora, l'ultimo film che ho fatto, PM Forever, il film sulla vita di Antonio Di Pietro. PM Forever, sì. Ok, fatto, finito, visto censura, Ministero dei Beni Culturali. E allora? Ok, bene, accordi con The Space per distribuirlo. Sì. All'ultimo momento salta in mezzo. Cioè, resta la domanda di Parenzo: perché? Perché? Non lo so perché. Perché, perché di questi film, caro Kennedy italiano, nessuno ha mai saputo un cazzo? Questo è il punto fondamentale. Comunque, ma, vabbè, perché, ma le sto dicendo. Per un grande complotto. Perché per andare in sala oggi ci vogliono 400-500 mila euro. Scusi un attimo, vabbè, ho capito. Gobbi, lei Berlusconi quando l'ha incontrato l'ultima volta? Ma l'ho incontrato a Vicenza. Ma quando? Due o tre anni fa. Sì, però sì. Lo conosce personalmente Berlusconi? Sì, ho detto di sì, lo conosco. Lo conosce? Conosco uno dei suoi legali, E che chi è? Piero Longo. Ah, Piero Longo, perché è padovano, sì. Anche Ghedini è padovano. Beh, Ghedini dice di non conoscermi, anche se ho frequentato lo studio per 10 anni. Te credo. Vabbè, Parenzo, ci sei o no? Sì, ti saluta Genova 14 che mi è venuto a prendere. A domani, 18.30, ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché no? Se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! Non sono... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.